Euroreportage. La glasnost albanese, un biglietto per entrare in Europa, di Raffaella Calandra. L'aula odora ancora di nuovo e dietro quella gabbia ancora nessuno ha ascoltato il suo verdetto, ma è qui, in un moderno palazzone di vetri e marmi, che l'Albania si prepara a mostrare all'Europa e soprattutto a se stessa il suo nuovo volto e a processare chiunque per anni l'ha trasformata in terra di impuniti, i corrotti della pubblica amministrazione, i coltivatori di droghe per mezza Europa, i rivenditori di diplomi falsi, ma ora pure i combattenti al fianco dell'ISIS. Anche attraverso queste aule, infatti, passa il sogno europeo del paese delle aquile. Sarà considerato terrorista, spiega il ministro dell'interno Samir Tahiri, chiunque vada a combattere guerre che non sono le nostre guerre. Almeno 20 gli albanesi già arrivati in Siria e qui, come nel resto dei Balcani, secondo più indagini, ci sarebbero pure centrali di reclutamento per jihadisti d'Occidente. I Balcani, l'Albania, come punto di smistamento e transito, dunque, pure delle nuove leve del califfato. La posizione geografica di sicuro esercita un ruolo, ma forse a contribuire ancor di più quello che tutti qui a Tirana additano come il principale problema del paese, quella radicata cultura dell'impunità per cui per anni nulla è stato mai sanzionato e anche i peggiori crimini potevano essere commessi senza conseguenze. Qui potevano essere riciclati i soldi delle mafie, trasformati in sgargianti insegne di locali notturni o casinò in mezzo a palazzi dall'intonaco sbrecciato. Da qui poteva passare tanto il traffico delle armi dell'est quanto quello delle auto. Da qui poteva partire la cannabis per mezza Europa, come un tempo succedeva per le sigarette di contrabbando. E per questo da qui passano ora e da qui talvolta vengono smistate pure le schiere di giovani provenienti da Francia, Gran Bretagna, pure dall'Italia per combattere nelle trincee dell'ISIS. Perché per anni, qui, proprio nel cuore dell'Europa, c'è stata una sorta di terra di nessuno. Ma ora il cammino di Tirana verso Bruxelles passa anche da queste aule lucide della Suprema Corte, costruita con finanziamenti comunitari e presieduta da Sander Simoni. Stiamo aspettando a breve nuovi processi per terrorismo a carico di combattenti partiti per l'estero o di persone che hanno finanziato qui attività di terrorismo. Abbiamo però anche casi di stranieri venuti qui in Albania per sostenere economicamente cellule terroristiche. Si aprirà una nuova stagione di processi e di lotta anche a questo crimine. È un cammino lento e faticoso, quello di Tirana, avviato da una nuova generazione di trentenni come il titolare dell'interno, Tahiri. As far as regards violent terrorism. Abbiamo introdotto una legge per cui è considerato terrorista ogni albanese che vada a combattere al di fuori dei nostri confini. Negli ultimi tempi è successo soprattutto in Siria. In questi ultimi mesi sono state arrestate 20 persone che avevano reclutato e fatto parte di gruppi attivi al fianco della Jihad. Ora vogliamo costruire un'unità antiterrorismo che sarà la più grande della regione. Even though not Albanian citizens. La lotta globale al terrorismo coincide con gli interessi nazionali in queste stanze del Ministero dell'Interno, architettura italiana, dove arriva il richiamo del minareto di Piazza Skanderberg, misto ai clacson di un traffico disordinato. Combattere il crimine organizzato e la corruzione è infatti una delle condizioni fondamentali per l'Albania, per avvicinarsi ancor di più al suo sogno europeo, ora che ha ottenuto lo status di paese candidato. Un sogno che sventola già col suo cerchio di stelle in tutti gli uffici, insieme alle due aquile. Un sogno che cammina già nella doppia moneta del nuovo euro e del vecchio lek. Un sogno che è soprattutto nella testa e sulla bocca di tutti, tanto nei blocchi della Movida quanto negli scantinati più disastrati della capitale. Più di 20 anni che noi l'aspettiamo questo momento, siamo molto in ritardo, quindi non vediamo l'attimo, insomma. L'Europa è stata sempre un sogno, quindi è una libertà e un'apertura, sia col centro mentale, sia nel movimento, sia nei rapporti commerciali più liberi, quindi parte tutto lì. Su una popolazione di 3 milioni di abitanti, l'83% è ansioso di entrare nella casa comune europea, registrano gli ultimi sondaggi, e per questo la gente si dichiara pronta ad affrontare i profondi cambiamenti necessari per assolvere alle 5 condizioni richieste da Bruxelles, a partire da una rinnovata cultura della legalità e della giustizia in un paese dove succede sia che un giudice venga fatto saltare in aria, sia che altri 5 ora siano al contrario sotto indagine per corruzione. Ma questa faccia ora l'Albania si sforza di confinarla solo negli archivi del passato, come la sua storia di paese comunista da cui si scappava attraverso l'Adriatico, stipati sulla nave Vlora o su imbarcazioni improvvisate. Siamo arrivati col gommone, ma ora abbiamo uno squadrone, scrivono su uno striscione durante l'amichevole di calcio Italia-Albania. Un ritrovato orgoglio di appartenenza e una disperata voglia di riscatto, percepibile pure dal tono con cui vengono snocciolate le cifre dell'operazione di polizia più imponente di sempre, che con la distruzione di 530.000 piante di cannabis e 101 tonnellate di marijuana, con l'arresto di ben 1.058 persone nei vari blitz antidroga, ha fatto uscire il paese dalla lista di quelli produttori di droga, racconta il ministro dell'interno Tahiri, che per questo blitz in un entroterra inaccessibile fino ad ora alle forze dell'ordine ha subito pure pesanti minacce. Come sapete, l'Albania è stato un paese di produzione di cannabis soprattutto destinata alle piazze di mezza Europa. Insieme alla polizia italiana abbiamo fatto questa importante operazione Lazard all'interno di un'area dove la polizia fino ad ora non era in grado proprio di entrare. E questa è la prima volta che l'Albania esce dalla lista dei paesi di produzione e coltivazione di droghe, ma è solo di transito ora, come Grecia o altri paesi. Quell'area è diventata off-limits per il fallimento totale delle nostre istituzioni a rapportarsi con essa. Noi ora sappiamo che dobbiamo prima fronteggiare il crimine organizzato, poi aprire il passaggio ad una soluzione anche economica per la vita dell'area. Parlando onestamente, quando abbiamo fatto questa operazione siamo rimasti da soli. È stato facile puntare il dito contro l'Albania, come paese d'origine delle droghe, ma non sono riusciti ad aiutarci quando abbiamo cominciato a combattere questa attività criminale. Abbiamo la polizia più povera d'Europa, e questo vuol dire nessuna infrastruttura, equipaggi deteriorati, il più basso livello di formazione dei militari e il numero più basso di poliziotti in rapporto agli abitanti in tutta Europa. E quando il crimine è così ricco, e quando ha avuto in passato il potere di corrompere e di evitare la giustizia, è ovvio che abbiamo bisogno d'aiuto. The power to corrupt and to avoid justice, for sure you need help. Non permette l'ingresso di quelle straniere, ma stringe molte alleanze anche con la Camorra Campana, la mafia albanese, che sta investendo pure nei mezzi di comunicazione, a quanto risulta da indagini tuttora aperte, confermate dal procuratore Adriatic Gjala. La lotta alle mafie e alla corruzione, quindi il ticket verso l'Europa, passa di sicuro pure attraverso una libertà di stampa, qui avvertita in realtà ancora come un traguardo da raggiungere appieno, anche se da questa parte dell'Adriatico sono sbarcati in TV pure volti noti italiani, dopo Alessio Vinci, Sabrina Ferilli. Ma noi non siamo davvero liberi di raccontare, ad esempio, la corruzione, ammette Menada Zaini di Agon Channel. Gli albanesi lo vogliono l'Europa, capiscono che per entrare in Europa tu poi potresti arrivare in un altro standard, anche dal punto di vista di economia. Della vita. Ecco, sappiamo che uno dei punti centrali anche del cambiamento dell'Albania rispetto al suo processo di avvicinamento all'Europa è anche la lotta alla corruzione. Questa passa anche attraverso la libera stampa. È cambiato anche il modo di avere accesso all'informazione per la stampa albanese? C'è maggiore trasparenza nell'informazione? Credo di no. Cioè, abbiamo una media che è molto controllata dalla politica, diciamo. Tu puoi parlare di corruzione, ma dipende dal personaggio, diciamo, che stai attaccando come media. Non puoi parlare per la corruzione in un livello più alto. L'auspicio di chi lavora qui è che l'apertura delle frontiere all'Europa, insieme alla facilità di spostamento, porti pure nuovi lavori come quelli che soprattutto dall'Italia stanno arrivando insieme alle imprese, e porti migliori standard professionali. Anche per questo, in questa glasnost albanese, Finisce pure la retata contro il business dei titoli di studio di fatto comprati senza aver neppure frequentato le lezioni, come era successo per Renzo Bossi e gli altri italiani, una decina, finiti sotto indagine pure qua. Il procedimento va avanti, riferisce il ministro dell'Interno, ma nel frattempo una ventina di università private sospette, tutte a Tirana, sono state chiuse. E anche questo è un segnale per Bruxelles e un altro ticket del paese delle aquile verso il sogno europeo. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.